24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le parole del presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha gelato i mercati sostenendo che resta alta l'incertezza nell'eurozona. Apprezzamento per la manovra italiana dopo un mese di giravolte e incertezze. Negative le stime OCSE per l'Europa e per l'Italia. L'allarme ora riguarda la stagnazione. Oggi vi parleremo anche di prodotti di qualità e di un'iniziativa ambientale a livello mondiale che si svolgerà tra una settimana e che vedrà coinvolta anche l'Italia. Per chiudere, le ultime dal Festival Internazionale del Cinema di Venezia. L'incertezza è particolarmente alta per le economie dell'Eurozona e i rischi a ribasso si sono intensificati. Il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, tiene alto l'allarme sull'area euro, mentre l'istituzione di Francoforte rivede a ribasso le stime trimestrali sulla crescita. Le nuove proiezioni preparate dagli economisti dell'Eurotower danno attualmente la crescita 2011 tra l'1,4 e l'1,8% e quella per il 2012 tra lo 0,4 e il 2,2%. Insieme alle previsioni generali, Trichet ha toccato la questione Italia, osservato speciale d'Europa. Le misure prese con la manovra confermano un primo impegno del governo di Roma, ha affermato. Poi però la bacchettata, la manovra italiana è arrivata dopo alcune esitazioni, alcune complessità, ma alla fine si è visto qualcosa che va nella direzione dell'impegno iniziale. Sentiamo Trichet. As regards the Italian government, we had sent messages. Per ciò che riguarda il governo italiano, gli abbiamo inviato messaggi. Io stesso, assieme al governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, abbiamo visto e valutato l'impegno del governo. Poi è seguito un periodo in cui ci sono state discussioni complesse. Le ultime decisioni prese dal governo italiano e dal voto del Parlamento confermano l'impegno. Confermano una cosa che era molto importante per il Consiglio direttivo, e cioè un primo impegno del governo italiano. Ho avuto un recente dialogo con il Presidente della Repubblica Italiana su quanto decisivo sia l'impegno e la realizzazione delle misure. Ricordiamo anche che la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati all'1,5%. E Trichet ha pure replicato a muso duro da alcuni economisti tedeschi che l'avevano accusato di aver trasformato la BCE in una bad bank. Facciamo solo il nostro lavoro mantenendo la stabilità dei prezzi, ha ricordato, e ha aggiunto che le misure di sostegno, quali l'acquisto di bond, sono temporanee. A gettare nuove ombre intanto sono giunte ieri pure le nuove stime OCSE, secondo cui l'economia dei paesi aderenti all'organizzazione è vicina alla stagnazione e la ripresa nel secondo trimestre si è quasi arrestata. Per gli Stati Uniti e l'Eurozona la crescita nella prima parte del 2011 è stata più debole del previsto. Battuta d'arresto in Italia, l'OCSE stima che nel terzo trimestre il PIL registrerà un meno 0,1% e nel quarto un più 0,1%. Nel G7, negli stessi trimestri, la crescita viene stimata a più 1,6% e più 0,2%. A Piercarlo Padoan, capo economista dell'OCSE, abbiamo chiesto se la manovra approvata da Roma sia adeguata alle esigenze dei conti pubblici italiani. La manovra va nella direzione giusta, intanto in termini di saldi. I saldi sono importanti se si mantiene appunto il pareggio di bilancio anticipato al 2013. Poi ci sono alcune misure di natura che io definirei strutturale importanti: la decisione di mettere in Costituzione l'obbligo di pareggio del bilancio dovrebbe aiutare molto ad aumentare il grado di fiducia dei mercati nei confronti del paese, l'allungamento dell'età pensionabile per le donne, la di fatto eliminazione delle competenze delle province, che dovrebbe portare dei risparmi permanenti alla gestione dell'amministrazione pubblica, e anche l'uso dell'aumento dell'IVA invece che della imposizione diretta per raccogliere risorse per raggiungere il pareggio di bilancio. La situazione in Grecia è seria. Atene non riceverà aiuti fino a che non avrà raggiunto le condizioni fiscali richieste dai creditori internazionali, lo ha dichiarato il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. E la settimana prossima i rappresentanti della Troika, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e Banca Centrale Europea saranno di nuovo ad Atene per riprendere le trattative con il governo ellenico sulle riforme strutturali necessarie a risanare l'economia del paese. Vediamo ora come i mercati hanno reagito alla giornata di ieri. Chiusura in rialzo per le borse europee, che tuttavia hanno vissuto una seduta in altalena. L'attesa per il piano americano di sostegno all'occupazione, annunciato nella notte dal presidente Barack Obama, ha incoraggiato gli acquisti. Il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,69%. Sentiamo. Chiusura e rialzo per le borse europee, che tuttavia hanno vissuto una seduta in altalena. Nel giorno in cui la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati all'1,5% e ha tagliato le stime di crescita per l'eurozona. L'attesa per il piano USA di sostegno all'occupazione, annunciato nella notte dal presidente Barack Obama, ha incoraggiato però gli ordini in acquisto. Così il FTSE MIB ha guadagnato sul finale lo 0,69%. Sono andate bene le banche, con UBI che ha guidato la volata segnando un progresso del 3,9%. Intesa San Paolo ha registrato un progresso dello 0,87%, beneficiando delle conferme da parte dell'amministratore delegato Corrado Passera al piano industriale della scorsa primavera. BPM inoltre è salita dello 0,8% dopo il no di Banca Italia a un eventuale rinvio dell'aumento di capitale. L'operazione tuttavia potrebbe essere ridimensionata a meno di 1 miliardo dall'iniziale cifra di 1,2 miliardi. Telecom Italia ha chiuso in progresso dello 0,44%, a dispetto del fatto che Moody's abbia tagliato l'outlook a negativo. Per contro sono andate male le Mediaset, meno 1,67%, pagando la bocciatura di Mediobanca che ha tagliato le stime sulla futura raccolta pubblicitaria. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Francia dovrà rivedere le misure urgenti prese nel 2007, con le quali ha sospeso sul territorio nazionale la vendita e l'utilizzo di sementi di mais transgenico MON 810 e poi nel 2008 ne ha vietato la coltivazione. E quanto emerge dalla sentenza pregiudiziale pubblicata dalla Corte di Giustizia Europea. Italia prima in Europa per prodotti agroalimentari di qualità. Anche nel 2010 il nostro paese si è confermato in cima alla lista per numero di riconoscimenti conseguiti. Sono infatti 219 i prodotti DOP, IGP e STG riconosciuti dall'Unione. Di questi 213 risultano attivi, lo rende noto l'Istat. L'Unione Europea deve dare un nuovo impulso al progetto di partenariato orientale, lo ha affermato il ministro degli esteri polacco, nonché presidente di turno europeo, Radoslaw Sikorski, spiegando gli obiettivi del summit che si terrà a fine settembre a Varsavia. E la Russia si oppone all'ipotesi che contratti sulla fornitura di gas sottoscritti con l'Ucraina possano essere sottoposti a un audit da parte della Commissione Europea, come chiede la presidenza di turno, lo ha reso noto il ministero degli esteri di Mosca. E ora cambiamo decisamente argomento, parliamo delle iniziative di Legambiente per ripulire il mondo. Legambiente rinnova l'appuntamento con la più grande iniziativa ambientale al mondo in collaborazione con la RAI. Puliamo il mondo 2011 si svolgerà dal 16 al 24 settembre e vede il coinvolgimento nel mondo di più di 121 paesi per un totale di 35 milioni di persone impegnate ogni anno nella difesa dell'uomo e del suo ambiente. Ermete Realacci, presidente onorario di Legambiente, quantifica la partecipazione dell'Italia. Si prevede una partecipazione molto ampia a questa giornata, che lo ricordo è una giornata mondiale, nacque in Australia e che in Italia da molti anni viene organizzata dalla Legambiente assieme a tantissime altre organizzazioni. Ecco, i comuni coinvolti quest'anno a tutt'oggi sono 1550, verranno pulite 4500 aree, pensiamo che parteciperanno almeno 500.000 di volontari. Quest'anno, oltre a liberare dai rifiuti piazze, giardini, strade, canali, centri storici e quartieri di periferia e a promuovere un'efficiente gestione dei rifiuti, il progetto è finalizzato a tutelare l'acqua. Il nostro paese infatti detiene il record mondiale di consumo pro capite di acque minerali, con il conseguente utilizzo di milioni di bottiglie di plastica da smaltire, le emissioni di tonnellate di CO2 per il trasporto. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. L'Italia che c'è si sta estinguendo. Tra 100 anni non ci saranno più gli italiani come li conosciamo. Ne è convinto Davide Ferrario, che ha presentato ieri alla Mostra di Venezia in Controcampo Italiano il suo nuovo documentario Piazza Garibaldi, un viaggio attraverso le tappe della spedizione dei mille per raccontare l'Italia di oggi. Ma com'è questa Italia? Sentiamo il regista al microfono di Marta Cagnola. Che siamo un paese totalmente riverso sul passato. Nel senso che chi contesta l'unità d'Italia, e magari anche certe volte con qualche ragione, perché non è che uno deve mettere sul piedestallo Garibaldi, come di fatto ahimè è stato messo, ne hanno fatto i monumenti e ne hanno ucciso anche la feconda contraddizione. Ecco, chi contesta questo, sia nord che sud, nessuno pensa a un passare oltre, a figurarsi una società che assume il passato per costruire qualcosa di nuovo. Tutti vorrebbero tornare a qualcosa che c'era prima. I festeggiamenti per l'Unità d'Italia, le celebrazioni, che impressione ti hanno dato? Stando a Torino ho visto un vero e sincero movimento di orgoglio. Certo che poi i problemi restano lì. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.